La norma sul dimensionamento è il male minore? Beh sì, certo sì, anche se questa è una norma contrattuale che però sarà applicabile quando si cambierà la legge, perché la legge ancora non, i contratti non possono cambiarla. E la legge è il vero vincolo, cioè quella che dice non si può mettere una mansione inferiore. Allora l'azienda che non può fare questo cosa fa? Lo licenzia. Questo è un caso di scuola che insomma mette a nudo una... Cioè lei una, dice che però deve cambiare la legge, perché noi avevamo capito che la contrattazione possa derogare la norma di legge, potesse derogare la norma di legge. No, può derogare, occorre cambiare la legge e che se c'è... D'altra parte l'accordo che viene fatto è stato apprezzato dal governo, quindi penso che ci sia una maggioranza che potrà andare in questa direzione, ma adesso è solo programmatica, come tutte le altre norme, cioè tutte le altre tutte le altre norme, quella che dice per esempio sull'IPCA, sugli automatismi, quella che demanda parte del salario a livello aziendale, devono essere applicate dai contratti collettivi nazionali quando si faranno. Questo è un accordo di tutte le associazioni, di tutti i sindacati. Quindi non, per adesso non ha nessun effetto, però quando i contratti collettivi metteranno in pratica queste cose cercheranno di farlo. E lo stesso questa cosa del dimensionamento non appare la parola, perché in effetti è una parola un po' brutta, quella di dire si metto in una mansione inferiore. Mi dica una cosa però per concludere, professore, lo chiedo agli ascoltatori, ma questo vuol dire anche uno stipendio più basso? Cioè se io facevo il quadro in una banca e siccome la banca riduce l'organico piuttosto che licenziarmi mi dice... vai a lavorare allo sportello, ma chiaramente con un salario però più basso. Beh, attenzione, poi ci sono i minimi nazionali che non possono andare più bassi, perché quelli sono sì, i minimi. No, ma rispetto, però c'è tutta la parte variabile, certamente può essere tutta quella legata al merito, alla professionalità, quella di tipo aziendale che sarà sempre più importante, e quella certo sarà adattata alla nuova mansione. Però in genere si dice, però certamente le competenze verranno valorizzate, cioè si è usato un po' di giro di parole per poter fare delle operazioni che oggi non si possono fare, in modo tale di dare qualche garanzia al lavoratore, ma di dare anche qualche flessibilità alle aziende di fare quelle riorganizzazioni che prevedono anche l'abolizione di certi posti di lavoro. Allora invece di licenziare mettono in un altro posto di lavoro, poi che sia più basso salario, quello sarà sempre la meglio, dice lei, che deciderà. Ma è avere questa flessibilità in più che è molto importante, insomma.